GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siccità, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza per 5 regioni, al Friuli Venezia Giulia oltre 4 milioni per fronteggiare la crisi idrica. Ieri la giornata più calda, temperature record anche in quota, ecco perché collassano i ghiacciai, parla l'esperto dopo la tragedia della Marmolada. Il grande ingorgo nei cieli d'Europa, anche a Ronchi voli cancellati, scali e compagnie in difficoltà perché manca il personale. Covid, quasi 500 nuovi casi su 2.400 test, salgono l'incidenza settimanale e il numero dei pazienti ricoverati. Partorisce alla stazione delle Corriere, abbandona il neonato, è accaduto a Lignano. Arriva il bonus regionale per 5 sedute dallo psicologo, è una misura per i ragazzi e le loro famiglie. Gorizia è il logo della città senza confini che sarà capitale della cultura, premio Amidei, presentato il festival. Altri 3 ori per i regionali ai giochi del Mediterraneo, scherma, nuoto e pallavolo. Calcio, Udinese al lavoro, dirige Andrea Sottil, l'allenatore della Triestina è Andrea Bonatti, ex Juve Primavera. 7:19 minuti, buona giornata da Eva Ciuc e Giampaolo Mauro. Abbiamo cielo sereno su tutta la regione, è passato senza conseguenze il fronte notturno che aveva fatto scattare un'allerta meteo, la protezione civile lo conferma comunque fino alla mezzanotte di oggi. Ieri una giornata torrida nella quale a Cividale si sono sfiorati i 39 gradi. Vediamo le temperature di questa mattina registrate alle 6. A Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi e 5 decimi. A Udine, Gorizia e Pordenone 20 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 18 e 5 decimi, a Tarvisio 16, a Sappada 11 e mezzo, a Foni di Sopra 15, sul Piancavallo 11 e mezzo, sullo Zoncolan 14, sull'Ussari 11 gradi, sulla costa Lignano 24 e 5 decimi, a Grado 23 e 5 decimi, temperatura del mare nelle due località 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni oggi in giornata saranno probabili rovesci e temporali su tutte le zone, possibile qualche temporale forte, cielo in genere variabile, mentre in serata sarà probabile tempo più stabile con cielo poco nuvoloso. Sulla costa soffierà tratti bora moderata o vento da nord-ovest, sarà meno caldo. Il Consiglio dei Ministri ha dunque deliberato nella seduta di ieri sera lo stato di emergenza per siccità per 5 regioni del nord, oltre al Friuli Venezia Giulia, per il quale sono previsti 4.200.000 euro di fondi. Il provvedimento riguarda Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il governo mette a disposizione nel complesso più di 36 milioni e mezzo di risorse. Saranno impiegati per fronteggiare la crisi idrica con mezzi e poteri straordinari, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata. In Friuli Venezia Giulia nella prima metà dell'anno è piovuto la metà rispetto al solito e il livello dei bacini è sceso di conseguenza ai minimi storici. Nei giorni scorsi il presidente della regione aveva firmato un'ordinanza per far fronte all'emergenza agendo in chiave antispreco. Tra temperature molto al di sopra delle medie stagionali e siccità che costringe ai razionamenti, mai come quest'estate stiamo vedendo le conseguenze tangibili del surriscaldamento globale, con esiti anche tragici come quello che è successo sulla Marmolada, un seracco che si è staccato improvvisamente dal ghiacciaio travolgendo decine di escursionisti. Il bilancio ancora provvisorio è di 7 vittime, 14 dispersi e tra gli 8 feriti 2 sono gravissimi. Chi pratica trekking ad alta quota deve prestare la massima attenzione perché oggi ci sono rischi che una volta non c'erano, rischi dovuti alle alte temperature che fondono i ghiacciai. Lo conferma Renato Roberto Colucci, glaciologo del CNR e docente all'Università di Trieste. I ghiacciai si stanno riducendo perché le estati sono diventate sempre più calde e sempre più lunghe, quindi il ghiaccio non ce la fa a resistere e quindi eventi di questo tipo stanno esattamente su quella linea che sta portando la criosfera alpina a ridursi drasticamente e in alcuni casi a scomparire del tutto. In quota le temperature, se parliamo da un punto di vista a lungo termine, sulle Alpi abbiamo già superato i 2 gradi di aumento della temperatura nell'ultimo secolo. Se poi parliamo invece di questi ultimi giorni, stiamo registrando delle temperature in quota che non appartengono, o meglio, non dovrebbero appartenere al clima delle Alpi, ma appartengono al clima dell'Africa. Questa massa d'aria è partita dall'Africa ed è arrivata sulle Alpi, quindi è come se ci trovassimo sull'Atlante. In regione, diciamo, rischi di questo tipo non ci sono, perché i ghiacciai ormai sono talmente ridotti e di piccole dimensioni che veramente non danno queste problematiche. L'unico vero ghiacciaio è il ghiacciaio del Montasio, che effettivamente ha una parte più ripida, però non ci sono le prospettive per temere eventi di questo tipo, perché mancano proprio le caratteristiche geomorfologiche. Il clima che cambia e le temperature che salgono sono un rischio non solo per la montagna ma anche per il mare. L'acqua dell'Alto Adriatico sta facendo registrare in questi giorni temperature ormai tropicali, intorno ai 27-28 gradi, e nella nostra regione abbiamo ecosistemi acquatici particolarmente fragili a metà fra la terra e il mare. Parliamo delle lagune di Marano e di Grado. Qual è il loro stato di salute e quali sono i rischi? Anche di questo si parlerà questa sera alle 21 al Museo Friulano di Storia Naturale a Udine, con una conferenza di Furio Finocchiaro, geologo dell'Università di Trieste. Lo ascoltiamo. I cambiamenti climatici influenzano e vanno ad aumentare i rischi degli ambienti lagunari, ma su tempi molto molto lunghi, nel senso che le lagune nascono da un equilibrio tra l'innalzamento del livello del mare e gli apporti solidi dei fiumi. L'uomo sta intervenendo su tutti e due questi aspetti. Con il riscaldamento globale fa aumentare il livello del mare e le azioni, soprattutto nei bacini montani, tendono a, come dire, bloccare a monte il materiale che poi deve andare a costituire le spiagge e i lidi. Certamente abbiamo tempo per organizzarsi. Quello che almeno a me personalmente preoccupa, pensando anche a quello che è successo ieri in Marmolada, se quest'autunno ci ritrovassimo in una situazione come quella del 1966, cioè una grande mareggiata di scirocco in cui il livello del mare non è che aumenta di pochi millimetri, ma aumenta di un paio di metri nel giro di una notte. C'è un rischio concreto: la superficie delle barene delle isole interne sta diminuendo, che è un risultato dell'innalzamento del mare. Quindi da una parte abbiamo dei problemi che possiamo cominciare ad affrontare su un periodo, diciamo, decennale, e come dicevo prima c'è in realtà il rischio di una situazione improvvisa, la grande tempesta che ci porta di colpo in una situazione di pericolo che magari si pensava sarebbe successa tra 20 o 30 anni. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Da alcuni giorni la carenza di personale sta mettendo in croce le compagnie aeree e gli aeroporti. L'ingorgo ha provocato lunghe code e voli cancellati in tutta Europa. Tutti gli scali hanno avuto ripercussioni, anche ronchi dei legionari. Due voli cancellati tra Trieste e Francoforte, uno in arrivo, uno in partenza, più un altro che era stato annullato e doveva viaggiare vuoto ieri sera, prima che Lufthansa riuscisse a reperire all'ultimo il personale di bordo mancante. I disagi del settore aereo iniziano a farsi sentire anche nello scalo regionale, ma per ora solo come conseguenza indiretta di problemi altrui, situazioni di cui sembrano a conoscenza i passeggeri con cui abbiamo parlato. Si riferivano ai voli internazionali, mi pare, non ai locali, no? Per cui no. Eravate tranquilli? Tranquillissimi. Aeroporti e compagnie del centro-nord Europa infatti sono in difficoltà. Non c'è abbastanza personale per far fronte alla domanda. Marco Consalvo, direttore generale di Trieste Airport. Negli aeroporti italiani, complessivamente, indipendentemente dalle dimensioni, non abbiamo enormi problemi come in nord Europa. Questo perché in Italia, grazie agli ammortizzatori sociali, il personale è rimasto sostanzialmente all'interno dell'azienda. A peggiorare la situazione è la nuova ondata Covid, tanto che a Ronchi si sta pensando a reintrodurre l'obbligo di mascherina per il personale come precauzione. In caso di volo cancellato si propongono al cliente soluzioni alternative, come è accaduto ai 100 passeggeri che dovevano partire domenica sera per Francoforte. La riprotezione viene fatta dagli handler, nel caso nostro dalla nostra biglietteria, che verifica i possibili collegamenti che si possono fare in alternativa. Al di là di queste difficoltà, per il settore il ritorno della voglia di volare è una buona notizia. L'aeroporto regionale chiuderà a luglio-agosto con un più 15% di passeggeri sullo stesso periodo dell'ultimo anno pre-pandemia, il 2019. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi in assemblea i soci della società Autostrade Alto Adriatico, la nuova società in-house che raccoglierà il testimone di Autovie Venete per una concessione trentennale. All'ordine del giorno c'è il via libera all'iter di affidamento. In un secondo momento a Roma il presidente regionale Fedriga sottoscriverà l'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici. Il punto sulla pandemia. Ieri in Friuli Venezia Giulia 484 nuovi casi di coronavirus su 2.400 test. Il tasso di positività è di poco superiore al 20%. L'incidenza settimanale è salita a 844 casi ogni 100 abitanti. Cresce il numero dei pazienti ricoverati, 9 quelli in terapia intensiva, 166 negli altri reparti. Le notizie di cronaca: sconcerto a Lignano per il caso della giovane donna che ha dato alla luce un bambino alla stazione delle Corriere e subito dopo il parto ha abbandonato il piccolo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio all'esterno del bar e alcune persone presenti sul posto hanno subito preso in custodia il neonato e allertato i soccorsi. Il bambino sta bene, anche la giovane donna che vive poco lontano rispetto alla stazione ed è stata rintracciata in casa, si è subito ripresa dopo l'importante emorragia postparto. Ora però la sua posizione è al vaglio della Procura di Udine. Da oggi dal sito internet della Regione sarà possibile accedere a una piattaforma dell'ARDIS, ente di diritto allo studio, e prenotare il bonus psicologo che permetterà di ottenere 5 sedute per gli studenti delle medie, delle superiori e i loro genitori che ne sentissero la necessità. Ci sono 300.000 euro di fondi pubblici per questo progetto, solo 25 euro il costo a carico della famiglia. Il primo appuntamento con lo psicologo già a settembre con Gian Domenico Bagattin, psicologo e psicoterapeuta specializzato nella fascia bambini e adolescenti. Cerchiamo di capire perché questa è un'opportunità importante. Gli abbiamo chiesto come stanno i nostri ragazzi. I nostri ragazzi stanno parecchio in sofferenza, sono aumentati i disturbi, specialmente relativi al ritiro sociale, come disturbi alimentari, disturbi depressivi, e i ragazzi sono in sofferenza. Il Covid e la pandemia hanno confuso il futuro, hanno reso il futuro incerto, hanno fatto saltare molti riti di passaggio che per i ragazzi sono straordinariamente importanti, e questa mancanza di prospettiva, di senso dell'identità e di incertezza perenne ha inciso tantissimo. Sono ragazzi che hanno sintomi psicologici veri e propri importanti, oppure semplicemente un senso di inutilità rispetto alla vita o di incertezza rispetto al futuro che rischia veramente di diventare patologico in un futuro. Per voi questa offerta dalla Regione è un'opportunità? Sicuramente è un'opportunità. È vero che alcuni colleghi hanno storto il naso rispetto al fatto che le tariffe possono sembrare in qualche modo una svendita di prestazioni professionali che ovviamente hanno una certa rilevanza. Io credo che non sia così, credo sia un'iniziativa estremamente importante perché il servizio pubblico non è in grado di far fronte al bisogno di determinate categorie di ragazzi che magari non possono permettersi una psicoterapia in privato con le consuete tariffe, ma non verrebbero in ogni caso accolti dal servizio pubblico per banali problemi di numeri. Per cui prendere per tempo questi ragazzi prima che questo livello di sofferenza diventi devianza o patologia è una cosa veramente molto molto importante. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dalla giunta regionale arriva anche la dote famiglia. I fondi stanziati per il 2022 serviranno a rimborsare in parte le spese sostenute dai nuclei familiari con minori a carico fino a 18 anni per garantire loro l'accesso ai servizi educativi e per conciliare i tempi di vita familiare e lavorativa dei genitori. Le domande potranno essere presentate ai comuni di residenza fino al 31 dicembre. Per le spese sostenute quest'anno per centri estivi, babysitting, attività sportive e culturali, ma anche corsi di lingua, ripetizioni e percorsi di educazione artistica e musicale. Insieme fa meno caldo è lo slogan della campagna lanciata dal comune di Pordenone per gli aiuti ai cittadini, soprattutto la fascia anziana, contro i disagi creati dalle alte temperature. Proseguirà fino a settembre. Le prime chiamate sono già arrivate, anziani e persone sole che chiedono consigli su come difendersi dal gran caldo, ma anche aiuti concreti per la spesa, il trasporto o la consegna dell'acqua a domicilio. Il piano dell'emergenza caldo del comune di Pordenone, operativo fino al 21 settembre, è attivato dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con le associazioni del territorio per contrastare i pericoli dovuti al calore estivo e non lasciare nessuno solo. Slogan della campagna montagna insieme fa meno caldo. È fondamentale fare rete tra i soggetti coinvolti anche grazie alla disponibilità delle associazioni del terzo settore, ha spiegato l'assessora Guglielmina Cucci. È disponibile un volantino con l'elenco di consigli utili, tra cui evitare di uscire di casa nelle ore più calde o idratarsi a sufficienza e i contatti a cui chiedere aiuto in caso di necessità, oltre al medico di famiglia per i problemi sanitari, alla guardia medica e al 112 per le emergenze. È possibile rivolgersi anche all'ufficio politiche sociali del comune di Pordenone e alla polizia locale. Per altre richieste come trasporto, spesa, farmacia o soccorso alimentare sono disponibili l'associazione San Valentino con il servizio gratuito di consegna dell'acqua a domicilio, la Croce Rossa Italiana che ha già effettuato le prime consegne di acqua e farmaci e che riceve decine di chiamate di persone sole che chiedono come contrastare la calura. Ci sono anche i volontari dell'AIFA a disposizione per il trasporto con i loro furgoni attrezzati per le carrozzine e l'associazione Hauser. È attivo anche il numero regionale 0434 22 35 22 che risponde per l'emergenza caldo digitando il tasto 5. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La CGIL di Trieste presenterà questa mattina alle 10.45 sulla piattaforma Meet il programma della festa che si svolgerà da giovedì a sabato al Culturni Dom di Prosecco. Le tre giornate saranno dedicate a porto e industria, sanità pubblica e rigenerazione urbana. Tra gli ospiti attesi l'ex ministro della salute Rosi Bindi. Fra 3 anni l'appuntamento di Gorizia e Nova Gorizia, città europea della cultura senza confini. Alla presentazione del logo, o meglio della sua identità visuale, abbiamo raccolto le opinioni dei sindaci, ma anche la spiegazione di uno dei 3 giovani creativi dello studio bolognese che ha vinto il concorso, è il triestino e si chiama Michele Pastore. Un sistema visivo che si basa su un alfabeto che, diciamo, descrive una delle caratteristiche del territorio, qual è il multilinguismo, per esempio. E abbiamo sviluppato un font con 5 diverse varianti stilistiche, ognuna delle quali racconta uno degli slogan della capitale europea della cultura. La presentazione al Borgo Castello di Gorizia, in casa Morassi, presenti i 2 sindaci Rodolfo Ziberna e Clemen Miklavic. Ziberna ha ammesso di aver avuto qualche perplessità iniziale passeggera in merito alla scelta del logo da parte della giuria mista italo-slovena, prima di cambiare idea. Proiettarsi un futuro diverso significa anche dotarsi non soltanto di strutture, non soltanto di strumenti, ma anche di una identità che può essere trasmessa attraverso un logotipo. È una immagine un po' avant-garde, una scelta un po' futuristica, ma il progetto di Gorizia e Nova Gorizia per l'Europa sono in qualche modo futurismo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Gorizia è stata presentata la 41esima edizione del premio Sergio Amidei, il festival che culminerà con l'assegnazione del riconoscimento internazionale alla migliore sceneggiatura, si svolgerà dal 14 al 20 luglio. Tra i nomi di spicco il francese Michel Hazanavicius, che riceverà il premio all'opera d'autore nella serata inaugurale, un incontro lo vedrà in sala con Roy Menarini e Paolo Mereghetti. E poi il 2 volte premio Oscar Asghar Farhadi riceverà un premio speciale, l'incontro con il maestro iraniano in programma il 19 luglio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno fra Arena di Piazza Vittoria, Kinemax e Mediateca Casiraghi. A Trieste tornano i congressi scientifici organizzati da ICG e B, il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia. Scienziati di fama internazionale si riuniscono per confrontarsi sui temi della replicazione e ripartizione del DNA, dei suoi meccanismi e di come possano essere utili per sviluppare nuove terapie, in particolare contro il cancro. La sessione si articola in diverse tavole rotonde organizzate da oggi fino ad oggi, 7 luglio, in stazione marittima. Partecipano specialisti del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dell'Università di Stanford e della multinazionale farmaceutica AstraZeneca. Parliamo di arte. Al Museo Revoltella di Trieste si apre la mostra sulla nuova pittura croata tra astratto e figurativo. Saranno esposte le opere di artisti che nei turbolenti decenni a cavallo tra fine Novecento e inizio 2000 sono riusciti a trovare e a sviluppare con successo le loro carriere, trovando forme espressive nuove, dinamiche, talora radicali. Nomi come Tomislav Buntak, Robert Pauletta, Paole Paolovic e Zoltan Novak. L'esposizione si inaugura alle 19 e si potrà visitare fino al 9 di ottobre. Questa sera alle 18 alla Libreria Friuli di Udine la presentazione del libro Requiem sull'ottava nota di Giovanni Taranto, un racconto tra camorra, mafia, estorsioni, droga e microcriminalità ambientato nell'Italia degli anni 90. L'autore, giornalista campano di Cronaca Nera e giudiziaria, ha raccolto gli spunti in tanti anni di professione. Con lui dialogheranno Giovanni Taormina e Carla Fiorentino. Pordenone legge, insegna a scrivere, lo fa con una iniziativa rivolta ai ragazzi fra i 12 e i 16 anni, una scuola di scrittura creativa intitolata Young Master sul racconto, che si svolgerà per 3 giorni a Palazzo Badini. I docenti sono Antonio Ferrara, Marianna Cappelli, Enrico Galliano e Lorenza Stroppa. A Lignano non si è ancora spenta l'eco del Giova Party. Sulla spiaggia si sta completando lo smontaggio della struttura che ha ospitato il grande show, un altro record dell'estate di Sabbiadoro. Il tratto di spiaggia che ha ospitato i concerti di Jovanotti è ancora un cantiere aperto, 70.000 persone nelle 2 serate, 140 tir per il trasporto dell'attrezzatura e dalle 500 alle 600 persone al lavoro. Questi sono stati i numeri dei mega party. Facendo un giro sulla spiaggia non sembra proprio che in quell'area abbiano saltato, cantato, urlato 70.000 persone. Manuel Rodeano, presidente di Isagest. Non ci sono stati disagi particolari, la logistica ha funzionato molto bene, non ci sono stati problemi dal punto di vista della sicurezza, l'area è già ripulita e già il 7 di questo mese verrà riconsegnata nello stato in cui è stata a sua volta consegnata circa 15 giorni fa. I grandi concerti delle ultime settimane, Cremonini, Måneskin e le 2 date di Jovanotti, oltre a portare il nome di Lignano Sabbiadoro in giro per il mondo, hanno fatto segnare il sold out per le strutture ricettive di tutta la zona. Tanti sono arrivati in treno, in auto, in autobus, con ogni mezzo per festeggiare la musica e il ritorno alla vita. Enrico Guerin, presidente Confcommercio Lignano. Abbiamo avuto gente che è arrivata dalla Lombardia, ma anche dalla Puglia o da altre regioni non proprio così vicine, che si sono fermate sul nostro territorio per diversi giorni, quindi sono sicuramente ritorni importanti a livello economico. Sicuramente sia i negozi che i pubblici esercizi, bar e ristoranti hanno avuto notevoli benefici da questi eventi. Lignano Sabbiadoro, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Tanta musica anche questa sera, in primo piano gli appuntamenti di Spilimbergo e Pordenone. A Spilimbergo, dopo la finale di ieri sera del Premio Cesa, Folchesta in calendario il concerto dei Mellow Mood e il reggae da esportazione dei fratelli pordenonesi Lorenzo e Jacopo Garzia, oggi tra i migliori interpreti di questo genere, in Piazza Duomo alle 21:15. A Pordenone arriva invece l'orchestra di Piazza Vittorio, storico ensemble multietnico della formazione Mutevole, che suonerà in piazzetta Pescheria alle 21. Il titolo dell'ultimo progetto del gruppo è Dance Floor. Da oggi a domenica si svolgerà a San Vito al Tagliamento il concorso musicale Piccolo Violino Magico alla 6ª edizione. 16 giovanissimi concorrenti arrivati da ogni parte del mondo per le fasi semifinali e finali che si terranno all'Auditorium Zotti e una serie di eventi collaterali aperti al pubblico. I solisti saranno accompagnati dall'Accademia d'Archi Arrigoni e nella finale dalla Friuli Venezia Giulia Orchestra dirette da Giancarlo Guarino. Domenico Mason, direttore artistico dell'Accademia d'Archi Arrigoni e del concorso Piccolo Violino Magico, ci racconta chi sono questi virtuosi in erba. L'identikit del piccolo violinista magico è un ragazzino, spesso e volentieri figlio di musicisti, ma non necessariamente, che comunque inizia in tenerissima età, quindi stiamo parlando dei 3-4 anni, e che ha doti particolari naturalmente perché è uno strumento piuttosto impegnativo e che soprattutto frequenta scuole di alto livello, nel senso che normalmente sono istituti speciali, specialmente all'estero, perché purtroppo in Italia queste scuole non esistono, con la didattica giusta per l'età e da subito insegnanti di altissimo livello. C'è qualche caratteristica che tutti questi bambini hanno che li accomuna, secondo lei? La passione per la musica, non c'è dubbio. Delle famiglie normalmente particolarmente sensibili, perché lì non c'è solo un lavoro di un ragazzino per quanto dotato, ma c'è un ambiente che favorisce questo, altrimenti non si creano le condizioni ideali. Stiamo già parlando di ragazzini molto giovani, cioè bambini, ma che crescono con un'idea proprio professionalizzante, insomma, con l'idea di fare quel mestiere nella loro vita. Devo dire che il baricentro si è spostato fino alla seconda metà del Novecento, più nei paesi dell'Est, stiamo parlando di Russia, ex paesi dell'Unione Sovietica per intenderci, adesso decisamente verso l'Asia, e quindi i paesi forti da questo punto di vista sono il Giappone, la Corea, la Cina. Questo sicuramente perché c'è una componente di disciplina che è fondamentale nello studio precoce di uno strumento, in particolare di uno strumento d'arco, che in quei paesi è assolutamente garantita. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri spettacoli di oggi: la serata Luttazzi apre Trieste Lars Jazz al Castello di San Giusto alle 20.30, ingresso libero. Sarà prima di scena la Spaccazuk Brass Band e poi toccherà al Nico Gori Swing Tentet, la musica di 100 anni fa ma che non invecchia. A Roveredo in Piano, nell'ambito di Pordenone Pensa, arriva una grande voce inglese, Dana Gillespie. In una carriera sfolgorante ha cantato in grandi musical come Tommy e Jesus Christ Superstar e ha una 60 di album all'attivo. Sul palco di Piazza Roma alle 21 sarà intervistata dal bluesman Mike Sponza e proporrà alcuni dei suoi brani più celebri. Ad Aquileia in Basilica alle 20.45 quasi un duello organistico tra Massimiliano Migliorin e Roberto Squillaci, allievi di Manuel Tomadin, che suoneranno sui due organi della Basilica, lo storico Kaufmann di fine Ottocento e il monumentale Zanin del 2001. Proporranno musiche di Bach e Guillemin. Aspettando Udine Jazz al Parco Brundi alle 21, appuntamento con il Gypsy Jazz Manouche di Matteo Sgubino con i suoi Lund Trublant. E sempre a Udine, in Castello, arriva la comicità di Max Angioni, una delle nuove star della scuola milanese. Il suo spettacolo si intitola Miracolato e comincia alle 21.30. Siamo allo sport, scherma, medaglia d'oro per l'udinese Giulia Rizzi ai Giochi del Mediterraneo. L'atleta friulana ha vinto la prova della spada superando di slancio qualificazione ed eliminazione diretta, battendo poi in semifinale e in finale due compagne di squadra, prima Roberta Marzani e quindi Nicole Foietti. Prossimo impegno per l'Azzurra i mondiali del Cairo, ma Giulia Rizzi sarà riserva a casa. La manifestazione di Orano è una miniera d'oro per gli atleti regionali. Ieri sul gradino più alto del podio sono saliti anche Matteo Restivo nel nuoto, nella staffetta 4% mista, e oggi sarà in finale nei 200 dorso. E nella pallavolo Sofia Dodorico, le azzurre in finale hanno battuto la Turchia. Calcio, Andrea Sottil vuole un Udinese a trazione anteriore, lo ha ribadito ieri al ritrovo della squadra per il primo allenamento da lui guidato. Conosco la filosofia della società bianconera, l'ho già sposata da giocatore, ha detto. Gruppo al completo, alla ripresa, compreso dell'Ofeu, per il quale non è mai stata nascosta la trattativa per una cessione al Napoli. E c'era Nestorowski, al quale è stato rinnovato il contratto per un anno. Sul versante della Triestina in Serie C è arrivato il nome dell'allenatore, sarà Andrea Bonatti, bresciano, 37 anni, nelle ultime stagioni tecnico della primavera della Juventus, che ha guidato fino alle finali della Lega Europea di categoria. Non ha un passato da giocatore professionista, ha debuttato come preparatore atletico e poi si è fatto le ossa come vice allenatore. In carriera ha affiancato tra gli altri Leonardo Menichini, ex difensore che chiuse in alabardato la sua carriera. Nel basket, mentre l'Italia di Gianmarco Pozzecco batte in trasferta i Paesi Bassi nelle qualificazioni mondiali, da Udine arriva la conferma per il capitano Antonutti, resta all'APU per un anno. Siamo alla rassegna stampa, cominciamo con il Messaggero Veneto nell'edizione del Friuli. I titoli principali sul dorso delle due edizioni sono gli stessi. Al centro pagina il caso di Lignano, partorisce in strada e fugge. Il neonato trovato alla stazione delle Corriere, la donna è stata rintracciata a casa dai carabinieri. In primo piano anche la tragedia della Marmolada, il distacco della massa di ghiaccio, cresce il numero delle vittime. In taglio alto nell'edizione del Friuli, Friuli, siccità sì allo stato di emergenza fondi, al Friuli Venezia Giulia. In prima pagina c'è anche un richiamo all'intervista con il nuovo allenatore dell'Udinese, ecco mister Sottil in campo, voglio aggressività. Capocronaca di Udine nelle pagine interne, infermieri più posti nonostante le richieste continuano a diminuire. Il vero problema per il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Udine, Stefano Giglio, è alla voce retribuzione. Il Messaggero Veneto nell'edizione di Pordenone, in prima pagina troviamo anche due titoli di cronaca, l'asilo di Cordenon si incendiato, controlleremo l'area con le telecamere, i danni ammontano a 10.000 euro. Poi si siede sulle rotaie alla stazione di Pordenone, due ragazzi riescono a portarlo in salvo, un uomo è riuscito a far fermare il treno in arrivo. E all'interno del giornale si parla anche del parcheggio interrato di Piazza del Popolo, sarà pronto nel 2025, l'iter è cominciato, i fondi statali impongono il rispetto dei tempi dei lavori, previsti 250 stalli, alcuni saranno messi all'asta, finanziata anche la rotatoria. Sul piccolo, la tragedia della Marmolada occupa tutta la prima parte del giornale. Tra gli approfondimenti c'è un'intervista con il climatologo Filippo Giorgi che dice è la tempesta perfetta, il riscaldamento globale può essere negato solo da chi è in cattiva fede. Ma il piccolo punta anche sulla città set hollywoodiano, una troupe di 500 persone con la diva Charlize Theron e poi Uma Thurman in arrivo, gira la maxi produzione Netflix, ieri le prime riprese sul Molo Audace. Nella cronaca cittadina anche il simbolo della Barcolana 54 firmato Matteo Thun e poi la novità sul fronte dei grandi magazzini in città. OVS, scrive il quotidiano, torna alle origini e si ricompra Coin. Sull'edizione di Gorizia spazio alla presentazione del logo che accompagnerà la città verso l'appuntamento del 2025, la capitale della cultura, e poi la presentazione del premio Amidei, mentre a Monfalcone sono stati aggiudicati i lavori per la rotatoria del porticciolo Sauro, saranno eseguiti dalla Polese di Sacile. Il Gazzettino di Pordenone, siccità, le ordinanze non bastano, i provvedimenti dei sindaci non sono sufficienti a scongiurare la grande sete del territorio regionale, in arrivo restrizioni. La fotonotizia, crisi dei prezzi, a rischio i cantieri in città, batosta sul PNRR, servono altri 13 milioni. Le altre notizie in prima pagina, troppi tamponi, apertura di Fedriga ai primari friulani, per il presidente sono professionisti capaci subito a un capaci e subito chiede dunque un tavolo, ieri riunione urgente. In taglio alto la cultura, a teatro con l'ERT, numeri da record anche con il Covid, presentata la nuova stagione. E poi nell'inserto Friuli Estate, dove si parla di metaverso, del robot chirurgico e del AI, anche che prevede le migrazioni. E il Gazzettino di Udine, stesso titolo sulla siccità, nella fotonotizia invece il nuovo allenatore bianconero Sottil, la mia Udinese si farà valere. Poi il caso del neonato ritrovato a Lignano e due titoletti di cronaca, la media Valussi vuole la cucina interna e Fontanini piace di meno. Divampa dunque la polemica dopo la pubblicazione della classifica del Sole 24 Ore. C'è il tempo per segnalare un'iniziativa riservata ai lettori più piccoli, l'iniziativa Un Mondo di Storie, nata nel 2013 da un'idea della Biblioteca del Mondo dell'ACRI di Trieste, propone un evento speciale, protagonisti tre ragazzi con letture in lingua straniera, in italiano e musica dal vivo, un viaggio che toccherà la Spagna, la Polonia e l'Africa. L'appuntamento è dalle 17 alle 18.30 a Trieste alla Biblioteca 48 Gambini. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano si occuperà del Recruiting Day per 80 posti di lavoro che si terrà il 14 luglio a Gorizia. Alle 11.20 comincia una nuova serie di A Tutto Bit, nella puntata di oggi, le due facce della tecnologia, l'uso pratico delle auto elettriche e la piattaforma YouTube tra intrattenimento e divulgazione. Questa edizione è stata realizzata da Eva Ciuc e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico Andrea Fontanot e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 7.52, vi lasciamo all'Onda Verde regionale, grazie a tutti per averci seguito e ancora buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.